innovativa all'interno, diciamo, di una corrente di riflessione che portiamo avanti al laboratorio Crunch ormai da un paio d'anni sulle trasformazioni, le mutazioni dello spazio urbano. E l'idea di questo appuntamento è in qualche modo di focalizzarsi sulla periferia, o meglio le periferie, come specifico punto di vista attraverso il quale analizzare appunto queste mutazioni. Spesso la periferia è considerata uno spazio semplicemente marginalizzato, inerte delle città, invece insomma quello che è un po' la nostra riflessione è che invece proprio guardare a partire dalla periferia le trasformazioni urbane più complessive possa essere invece un esercizio molto produttivo sia di critica sia di sperimentazione politica, ma anche proprio di produzione teorica. Quindi un po' l'obiettivo è porre, diciamo così, la periferia al centro con questi due giorni dentro una dimensione complessiva e multi, diciamo così, disciplinare, artistica, culturale, politica, tracciando vari sguardi. Questo è un po' il percorso e il concept, se vogliamo, tra due giorni. Come si riesce a dare centralità a una periferia e non relegarla, no? Non ghettizzarla, insomma? Sì, esatto, insomma il punto un po' è che in realtà come esperienza appunto che abbiamo fatto anche come laboratorio Crash, che è stato insomma da tanti anni uno spazio nella periferia per scelta politica, come scelta appunto strategica di situarsi in un contesto che viene solitamente descritto come il posto dell'abbandono, il posto lontano, che invece quando poi si sta nella periferia si scopre che in realtà sono territori molto vivi, molto creativi, produttivi, molto, dove c'è una potenzialità per lo più inespressa che ci interessa invece, come dire, portare alla luce. Chiaramente la periferia è anche un luogo in cui c'è un'estrema violenza, soprattutto di tipo, diciamo così, istituzionale, è anche un luogo di sottrazione sempre più grossa di quote di welfare, anche di impoverimento molto forte, ma al contempo appunto pensiamo che guardare e stare, fare politica e intervento sociale nella periferia, per la periferia, a partire dalla periferia, si ha una tensione decisiva oggi, non solo, diciamo così, a Bologna, ma dentro le dimensioni più complessive. A proposito di questo, come sta procedendo l'esperienza di Crash, che appunto si trova in una periferia, in via di Corticella? Questa nuova occupazione, che ormai è la decima, l'undicesima, ormai si è perso anche un po' conto, ci ha fatto, diciamo, scoprire per l'ennesima volta un nuovo luogo urbano. In realtà non siamo lontanissimi dallo spazio precedente, dove siamo stati per variati anni, quindi molte cose, diciamo così, le conoscevamo già. Ma sicuramente quando poi si sta effettivamente, come dire, si vive in qualche modo socialmente, politicamente, una zona, si scoprono appunto anche molte cose che ci hanno anche colpito. Diciamo così, abbiamo trovato un tessuto sociale sia associativo che informale in realtà molto più partecipe, molto più vivace, più ricco rispetto a quello che ci aspettavamo. C'è stata quindi interazione su molte iniziative che appunto tutto sommato dal punto di vista nostro è stata inaspettata, e quella parte, diciamo così, di Corticella, lo voglio ricordare, in realtà non è, diciamo così, una parte piccola di Bologna. Si tratta di 60-70 mila abitanti che compongono questa parte, diciamo così, del quartiere da Viva, all'interno del più grande scenario, diciamo, di Bologna a nord. Ecco, una parte che in qualche modo ci sembra importante che possa anche appunto esprimere una sua voce molteplice, complessa e anche contraddittoria, volendo, però ecco, questo è un po' il lavoro che stiamo cercando di fare. Sicuramente non è un qualcosa di semplice, però anche se volevo darvi un esempio, per questi due giorni appunto per i Feric abbiamo fatto questa cosa come sperimentazione di lanciare una sorta di call per fotografi, chiedendo di inviarci degli scatti che appunto potessero in qualche modo raccontare la periferia. Era una cosa che insomma poteva andare anche male, andava anche magari il timore di magari non gli interessa nessuno regalare in qualche modo i propri scatti fotografici sulla periferia. Ci sono arrivate 40-50 proposte differenti, alcune davvero estremamente valide. Questo sono un piccolo esempio di come arte, racconto, politica della periferia in qualche modo in realtà abbiano molto di inespresso, che invece crediamo sia un terreno di potenzialità tutto da approfondire. Mi aveva colpito il fatto che avete cercato perlomeno di raccogliere le voci delle periferie di tutto il mondo, perché in fondo questo non è un fenomeno solo italiano, è un fenomeno che si ripete uguale in tutti i paesi, potremmo dire. Sì, sicuramente, diciamo, se la prima giornata periferica, quindi il venerdì, avrà, diciamo, un momento più oltre appunto alla mostra fotografica che accennavo prima, dove, diciamo, i vincitori di questo contesto fotografico esporranno le loro foto, mentre appunto il venerdì avrà un discorso, vogliamo, più di riflessione teorica. Sabato, come dicevi giustamente tu, verranno a confrontarsi esperienze da Rio de Janeiro, da Parigi e da Napoli. Chiaramente contesti estremamente differenti anche fra loro, ognuno con forti caratteri e specificità, paragonare una favela di Rio de Janeiro che è, diciamo così, un'occupazione autocostruita di settori popolari sulle colline della città con la banlieue più estrema di Parigi, dove viene questo comitè pure da sabato appunto a Crèche, o ancora il Rione Traiano di Napoli, dove c'è questo comitato Davide Bifolco che appunto parteciperà al dibattito. Ecco, stiamo parlando chiaramente di scenari estremamente anche eterogenei, ma al contempo crediamo che ci siano, e questa è un po' anche la sfida che lanciamo in questo dibattito, una serie di tratti comuni, di linee che in qualche modo possono convergere, accomunare queste dimensioni di una periferia da un lato schiacciata, da un lato continuamente chiusa da parte anche di molte appunto politiche, quindi anche una chiusura istituzionale, ma al contempo anche l'esperienza che abbiamo chiamato a parlare a Crèche sabato sono anche esperienze di organizzazione, esperienze di produzione quotidiana di altra forma di vita, diciamo così, all'interno della periferia. Quindi da un lato appunto ci interessava mettere in luce questa doppia faccia, da un lato quella della violenza istituzionale che purtroppo continuamente colpisce, marginalizza le periferie, e dall'altra invece anche come si diano una serie di risposte, di sperimentazioni sociali e politiche rilevanti che ci interessa appunto mettere in dialogo anche a partire dalla nostra esperienza. Però sicuramente sabato, per quello che ci riguarda, ci interessa più diciamo ascoltare e capire queste voci da altre parti, diciamo, d'Italia, d'Europa e del mondo, più che dire la nostra, ecco.